Cosa hai visto, fratello nero, che ti sei spento come un cerino? Senza un amico, senza un lamento, senza nemmeno capire perché. Che cosa hai visto, fratello giallo, che sei caduto come una piuma, con un trifoglio rosso nel petto? Che cosa hai visto, dimmelo tu. Lo stesso cielo del mio paese, un cielo azzurro senza contese, che non è complice della follia e crede ancora nella poesia. Un cielo azzurro che chiede amore, senza fanfare, senza clamore, e che vorrebbe solo vedere uomini veri senza frontiere. Che cosa hai visto, fratello bianco, che sei caduto senza sapere, mentre stringevi già nella mano il tuo biglietto per ritornare? Che cosa hai visto, fratello uomo, che sei caduto mentre correvi nella tua guerra di tutti i giorni? Che cosa hai visto? Dimmelo tu. Lo stesso cielo del mio paese, un cielo azzurro senza contese, che non è complice della follia e crede ancora nella poesia. Un cielo azzurro che chiede amore, senza fanfare, senza clamore, e che vorrebbe solo vedere uomini veri senza frontiere. Lo stesso cielo del mio paese, un cielo azzurro senza contese, che non è complice della follia e crede ancora nella poesia. Un cielo azzurro che chiede amore, senza fanfare, senza clamore, e che vorrebbe solo vedere uomini veri senza frontiere.